America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Welcome back to the historic Fox Theater in downtown Detroit and the Republican presidential debate. Torniamo alla politica americana. Voglio concentrarmi in questi giorni sulle elezioni perché siamo in una fase decisiva. Ieri c'è stato un altro dibattito repubblicano, un dibattito importante perché dopo il super martedì, Donald Trump naturalmente si è trovato sotto l'attacco di Ted Cruz, il senatore texano, di Marco Rubio, il senatore per la Florida. Entrambi stanno combattendo per sopravvivere, dunque siamo in un momento particolarmente drammatico, particolarmente difficile per i candidati al secondo e terzo posto, e soprattutto siamo in una fase di svolta, perché da qui ai prossimi giorni, alle prossime elezioni, quella del Michigan, il dibattito è stato a Detroit, quella del Michigan di martedì, ma anche alle altre elezioni alla prossima settimana, è possibile che cominci davvero a prendere corpo in modo più concreto la candidatura di Donald Trump oppure degli altri in campo democratico, come sapete Hillary Clinton è sicuramente più affermata. Ma partiamo da una dichiarazione alla fine del dibattito, sentiamo. I'll support the Republican nominee. Mr. Trump. Yes, because I gave my word that I would. Ecco, questi sono i tre candidati ancora in corsa che hanno partecipato al dibattito: Marco Rubio, Ted Cruz, John Kasich, che è il governatore dell'Ohio. Ciascuno ha detto di essere disposto a sostenere Donald Trump se alla fine sarà lui a vincere la nomination del Partito Repubblicano. Ecco, questo è un punto abbastanza importante perché si era parlato di spaccatura del partito, si era parlato della possibilità che la leadership del Partito Repubblicano potesse in qualche modo ostacolare fino in fondo la candidatura di Trump, magari sostenendo uno dei candidati perdenti con una corsa autonoma. Ecco, questo non è mai successo prima, io non ho mai creduto che questo potesse succedere e adesso abbiamo la conferma che, insomma, questa è la corsa. Sono questi quattro candidati che si confrontano e uno di loro alla fine sarà il nominee. In questo momento, come sapete, Trump si trova in vantaggio e ieri Trump era sotto l'attacco di tutti, dei giornalisti e dei suoi concorrenti. Cosa c'era in ballo? Lo scandalo all'università, le posizioni poco chiare sul Ku Klux Klan, i cambi improvvisi di posizioni, per esempio sull'Afghanistan oppure sull'Iraq, i soldi che lui stesso ha donato a Hillary Clinton in campagne elettorali precedenti, la sua posizione diversa sull'immigrazione. Si dice per esempio che in una conversazione con il New York Times abbia detto: ma io poi alla fine sarò più flessibile, dico adesso che voglio costruire questa parete, questo muro, però poi alla fine potrò anche negoziare. Il fatto che dica di andare d'accordo con Vladimir Putin, la bestia nera della politica americana. Insomma, Trump è apparso a volte in difficoltà e sicuramente ci sono state delle bordate molto forti contro di lui, però alla fine, devo dire, credo che se la sia cavata. C'è stato, come dire, uno scontro anche un po' volgare, un po' da liceali, ed è questa la critica che la leadership del Partito Repubblicano ha portato a Donald Trump. Ecco, sentiamo questo scambio in particolare. Look at those hands. Are they small hands? And he referred to my hands. If they're small, something else must be small. I guarantee you there's no problem. I guarantee you. Ecco, intanto Donald Trump continuava a chiamare il senatore della Florida Little Marco, piccolo Marco, piccolo Marco, sei un piccolino, sei un ragazzino. E poi ha risposto a una battuta a doppio senso che Rubio aveva fatto nei giorni scorsi, dicendo che Trump aveva le mani piccole. Dice qualcuno, dice: guarda quanto sono piccole le mani di Trump. Lui dice di essere così grande, così grosso, così potente, eppure c'ha queste mani così piccoline, così delicate. E, come dire, lasciando intendere che forse c'erano altre cose piccole di Trump. E naturalmente Trump ha risposto: guardate queste mani, così ha cominciato a far vedere queste mani al pubblico. Dice: secondo voi sono piccole? E vi garantisco che non c'è nessun'altra parte piccola nel mio fisico, non c'è nessun problema. Ecco, questo tipo di scambi non lo si è mai sentito in un dibattito presidenziale americano. C'è un profondo senso della dignità, un profondo senso dello Stato, un profondo senso del rappresentare quelli che sono i massimi valori di questa democrazia, che devo dire, seguendola nel corso delle elezioni, dall'Iowa al New Hampshire, agli altri stati ci dà davvero la misura di una democrazia molto matura, ma devo dire più puerile da quando Donald Trump è entrato in campo. One of the things people love about you is they believe you tell it like it is. Ecco, Megyn Kelly, questo era uno degli scontri più attesi, ha attaccato a un certo punto Donald Trump, devo dire ha attaccato tutti, non è che attaccasse Trump più degli altri, è stata cattivella abbastanza con tutti, però uno dei punti chiave nei confronti di Trump ha riguardato la volatilità delle sue posizioni, per esempio per la guerra in Afghanistan, prima ha detto che era un errore, poi l'ha negato, prima diceva che accettare i rifugiati siriani era una buona cosa, dal punto di vista umanitario era giusto farlo, poi ha detto che l'America invece non poteva assolutamente permettersi di ospitare i rifugiati e che lui l'avrebbe impedito. Insomma, ci sono posizioni contraddittorie da parte di Trump. Sentiamo come risponde Trump. I've never seen a successful person who wasn't flexible, who didn't have a certain degree of flexibility. Ecco, di nuovo in modo molto semplice, sentite, su alcune domande ho cambiato punto di vista perché quando mi sono state poste all'inizio non ero a conoscenza dei fatti. Ecco, ci si domanda, ma come? Tu vuoi correre per la presidenza degli Stati Uniti, ti presenti al pubblico e poi non conosci bene i fatti, e poi aggiunge, cioè, non ho mai visto una persona di successo non essere flessibile, un certo grado di flessibilità è necessario perché si imparano nuove cose, si viene a conoscenza di certi dettagli, si devono cambiare i punti di vista. Ecco, e qui devo dire, dal punto di vista politico, il candidato Trump rivela di aver capito l'umore del pubblico americano. Gli americani sono stanchi, sono stufi del muro contro muro. Ricorderete che Barack Obama non ha potuto concludere molto dal punto di vista legislativo al Congresso perché i repubblicani, semplicemente avendo la maggioranza, gli bloccavano qualunque progetto di legge, rifiutavano qualunque dialogo. Ecco, con questa sua apertura Trump è riuscito a conquistare, devo dire, delle posizioni, delle sacche di voto che in passato lo stesso Partito Repubblicano non pensava di poter raggiungere. Quello che sta capitando è che Trump, prima del partito, si è accorto che la base elettorale forse sta cambiando. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. 21 Pilots, la canzone Stressed Out. Devo dire, i candidati sono stanchi, naturalmente, agitati, tesi, stressati, perché non riescono, nonostante ci provino in tutti i modi, a scalfire Teflon Trump. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe it's in my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face. And I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly it far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah, we used to play pretend. and give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.